che smania, che freva, sta giacca e sto segno e russetto, soltanto una notte sapisse che male mi fatto. Torna cuore sto cuore, penata vota ancora, ti voglio abbracciare. Giacca rossa e russetto, quante cose mi fai ricordare. Mai una volta mi ha scritto giacca rossa e russetto addosta. Tutte sere l'aspetto a spranzo che dice sto ca. Giacca rossa tu mi fai chiagnere senza lacrima priessa a te. Giacca rossa tu mi fai chiagnere senza lacrima priessa a te. Una stanza deserta e nanza chi stuocchia una giacca che voglio, che cerca, io moro su un'anna una bocca. Torna anima mia, se non conosci a via ti venga a incontrare. Giacca rossa e russetto, quante cose mi fai ricordare. Mai una volta mi ha scritto giacca rossa e russetto addosta. Tutte sere l'aspetto a spranzo che dice sto ca. Giacca rossa mi fai chiagnere senza lacrima pressa a te. Giacca rossa tu mi fai chiagnere senza lacrime appriessa a te. Tutte sere l'aspetto a speranza che dice sto ca. Giacca rossa mi fai chiagnere senza lacrima pressa a te. Giacca rossa mi fai chiagnere senza lacrima pressa a te.